i cassonetti dell'immondizia indifferenziata, e ci sono stati dei danni collaterali al riguardo. Non so se uno dei nostri due ospiti, Eugenio o Filippo, vogliano parlarci dei danni collaterali e del perché, e se sanno per caso del perché, insomma, il sindaco adesso abbia ricomprato questi altri cassonetti, insomma. Ah, perché li abbia ricomprati, non lo so, me lo stavo leggendo prima, no, devo approfondire. Perché la politica che loro hanno messo in piedi è stata quella di aumentare, secondo loro, il volume di raccolta differenziata attraverso il togliere i cassonetti neri. Quindi noi la mattina abbiamo, all'inizio, dei furgoncini mobili. Attualmente un addetto dell'AMA con un cassonetto marrone dell'organico, quando c'è il tipo, perché ovviamente poi si spostano, eccetera, eccetera, e dalla mattina presto fino alle 10:30 circa. Dopodiché inizia l'effetto collaterale, ossia il danno collaterale. Chi arriva dopo le 10:30 lascia la mondezza per strada o nel prato vicino o verso dove si trova, insomma. Quindi abbiamo come effetto che per le strade si formano delle piccole discariche. Loro hanno messo in piedi, dopo la riunione, c'è stata un'assemblea popolare al municipio con la gente del quartiere che era la più interessata a fare la raccolta differenziata, perché 200-300 persone che seguono un'assemblea dell'AMA erano proprio quelli attenti a queste cose, che però erano avvelenati perché si stanno a formare dove c'erano i cassonetti e dove è rimasto il cassonetto della carta e quello degli altri materiali, il blu e il bianco. Si formano delle piccole discariche. O anche si trova materiale indifferenziato all'interno dei Certo, cassonetti perché del cartone o del c'è la metallo. gente che butta, chi arriva tardi Per non lasciare l'immondizia per strada, perché pensa di è fare una una cosa bella giusta. cosa invece di buttarla, lasciarla per strada, che comunque questi poi alla fine o la mattina dopo o in serata passa qualcuno a raccoglierla. La infilano dentro la raccolta differenziata, quindi viene inquinata pure quella lì, che se ha più di un tot di percentuale di materiale di scarto non viene nemmeno pagata dal consorzio della carta o delle altre Certo, raccolte, certo. perché la pagano a tonnellata a seconda pure della purezza. Se c'è più di tot materiale non riciclabile non viene pagato il carico. Quindi, insomma, un altro danno L'altro collaterale effetto è sono i che parchi. i parchi del quartiere sono sporchissimi, ci stanno un sacco di buste tipiche della mondezza domestica, quindi con all'interno tutto, che vengono lasciate all'interno del parco. Comincia anche il parco di Roma Natura, poi sarebbe, quindi sarebbe pure una. Ma non c'è nessuna, ormai non c'è più nessuna cura sul parco, tant'è che se voi fate un giro ci trovate non so quanti motorini buttati là. C'era il cartello del sentiero di Roma Natura, comunque era una delle cose pregevoli del quartiere. Questi giorni è venuto giù pure quello, quindi tutta la tabella con gli animali del parco. Dopo le piogge sono buttate giù e non si sa che manutenzione su quello non ce n'è. Su quello, l'altro parco, quello vicino Cesare Pavese, continua, anzi, sono state messe da poco pure le altre panchine, e sono stati messi dei cestini, perché pure lì c'era questo problema poi dopo che se verranno svuotati questi cestini. Aspetta, aspetta. Perché quando hanno detto abbiamo levato tutti i cassonetti, nel comunicato stampa dell'AMA, però nelle zone in cui verranno levati i cassonetti verranno messi molti, molti e molti posti postazioni per i rifiuti stradali, perché ovviamente se c'hai, ti trovi con la bottiglia dell'acqua, la cacca del cane, la nostra società produce, te vai a prenderti un pezzo di pizza, ti danno busta, carta contro carta, poi rimani per strada con tutte queste cose. A me capita spesso di la prendo a Cesare Paese e la butto a casa mia, perché non trovi niente per strada. Perché non sta neanche alla fermata dell'autobus, c'è il secchione. Un piccolo, no, un secchione, un bidoncino per le carte, quindi il quartiere vive nella sua sporcizia come più degli anni 80. Il bello è che mi pare sempre all'assemblea con l'AMA ci stanno sì ragazzi che poracci, poi so i ragazzi che lavorano con l'AMA sono assunti part time a un contratto del mese. Non credo sia un problema del personale. Non è un problema del personale, della direzione, però della gestione proprio della cosa. Il bello è che loro stanno fermi ai cassonetti aspettando che la gente quello gli porti l'immondizia. Poi intorno è tutto sporco e giustamente la gente chiedeva, vabbè, ma quelli che puliscono le strade, oppure questi invece che stanno fermi non possono pulire le strade. E c'è stata appunto la cosa che fosse essenziale, la divisione dei compiti. Se noi andiamo sul sito dell'AMA, per ogni quartiere c'è scritto quante volte dovrebbero venire quelli a pulire le strade. C'è una barzelletta così. Io ho parlato anche con persone che non abitano in questo quartiere, ma c'è sta frequenza di pulizia della via una due volte a settimana. C'è scritto passa. Non è vero, non è tutto. Ma perché in questo paese tante cose si fanno solo per tutta questa comprare i furgoni, eccetera. L'operazione facciata è stata un'operazione per ottenere. Stanno perdendo dei finanziamenti europei enormi sulla raccolta differenziata, eccetera. Quindi in fretta e furia si sono dovuti mettere in paro e in questo modo con di gente che evidentemente i super pagati dirigenti delle aziende municipalizzate dormono per fanno altro. Ricordiamo che il presidente dell'AMA, che è il primo, è fra i più pagati, fra i primi 5 più pagati dei dirigenti. No, è proprio il primo, si chiama Franco Panzironi, AMA guadagna 545.288,97 euro all'anno. Più del sindaco. Poi tra altre cose specifichiamo, visto che abbiamo accennato questa cosa, in realtà c'è una legge comunale che direbbe che insomma lo stipendio delle aziende, dei dirigenti delle aziende municipalizzate non dovrebbe superare quello delle cariche pubbliche, mono perché noi ci interessa qualcosa su quanto prendono, anzi non dovrebbero prendere niente secondo noi, gli dovremmo togliere tutto. Però a parte questo, come si verifica questo meccanismo? Perché loro ovviamente forniscono delle consulenze da privati, sempre magari all'interno di progetti gestiti dal comune, ed ecco lì che insomma il loro stipendio balza a queste cifre. Poi a riportare questa notizia, tanto per non essere additati come faziosi, c'è stato un articolo del Corriere della Sera, insomma, cioè non è che lo riportavano chissà quali attivisti, insomma, qualche organo fazioso di un comunista, anarchimarxista, no, insomma, il Corriere della Sera ha fatto queste indagini, ha riportato insomma queste notizie. Poi tra un po', se parleremo della Formula 1, facciamo anche un altro nome, insomma, di questi insomma interlazzini, gli amministratori delegati, sì, quello diciamo dopo, quando sono sempre gli stessi che girano, sì. Scarti della politica che vengono lì riciclati, questo sì lo fanno bene, li riciclano tutti nella direzione di vari organi. C'era l'altra settimana una puntata di Report, come al solito interessante, che spiegava i vari i dirigenti delle varie authority antitrust, comunicazione, ACCOM, eccetera, con stipendi simili, sì, come venivano nominati, stipendi sono sempre i soliti che girano, devono essere bravissimi, perché abbiamo più o meno personaggi come Bertolaso, no? Che è chiamato a risolvere qualsiasi cosa, poi alla fine si vede invece perché sei strumentale, sei organico a quel circuito dei favori, dei imprenditori sempre chiamati che c'è stato questo. C'è stato. Io... andava, cioè, la moglie di uno di questi politici chiamava questo qui, il dirigente di questa impresa di costruzioni, perché gli perdeva la cassetta del bagno. Cioè, quindi prendi l'appalto, e l'appalto prevede pure la manutenzione della casa in campagna di tutti questi politici che ti chiamano poi per riparare. Questa avrà imbiancato, quello che aveva comprato la casa a Scagliola, ha imbiancato, ripulito case a tutto il mondo, perché poi è un po'... Eppure ognuno di noi ha subito questo tipo di malcostume. Mi ricordo quando lavoravo come fotografo, c'era con l'AGIP e c'erano queste questioni che tipo perdiamo degli appalti, no, delle cose, perché diciamo no, io faccio il fotografo, non mi vado ad andare a prendere pure i figli a scuola del dirigente di questa società, che o andargli a fare la spesa. C'era un altro che magari vinceva e la cosa prevedeva pure questi favori e tutto basta. Italiano, no? Che questa cosa, questo ti vince, no, cioè, mi devi fare, poi mi fai pure questo. Spesso è pure sottointeso, invece perché in questo paese va a rotoli. Comunque sono cose, insomma, che a noi gente comune, che non prendiamo 45.000 euro al mese, non... cioè ci tangi solo per quelle che poi sono le conseguenze. Senza saper fare il proprio lavoro, perché poi se tu riempi, non riesci a raggiungere nessun livello di raccolta differenziale quando si vanno a fare i conti davvero, ma sempre trucchi, cose. Aeroporti di Milano, l'altro giorno è uscita un'altra cosa vergognosa che facevano per mantenere gli standard elevati, che se ne è accorto mo con la struttura comunicativa a rete che c'è, certe cose diventa più difficile nasconderle o anche facile denunciarle con... e puoi fare i video col telefonino, eccetera. Ma questo qui è un passeggero abituale, uno che lavora, che farà, che so, Roma-Francoforte, Milano-Francoforte, cose, viaggi di lavoro spesso, dice: vedevo sempre uscire una valigia rossa dal nastro trasportatore per prima e poi più nulla. Un giorno l'ho aperta, chiedi sempre questo, chi è? L'apre, c'era polistirolo, riviste vecchie, cartoni, eccetera. Sostanzialmente, per rimanere negli standard di aeroporto classificato in un certo modo, i bagagli ti devono arrivare entro tot minuti. Ah, e il quella era la prova. Arriva la prima valigia buttata sul nastro, ferma il tempo, poi dopo 20 minuti arrivano le altre, quelle in tempo reale. Cioè, queste sono le cose italiane. In altri aeroporti viene fatto, viene la macchina della struttura aeroportuale, corre a prendere una valigia, la butta sul nastro, il fortunato, se non c'ha due bagagli, ritira tutto subito, dopo mezz'ora arrivano gli altri, però è certificato che i bagagli italiani. Ovviamente queste cose poi all'estero, quando se ne accorgono, diciamo, i soliti italiani, pizza, mandolino, piccole truffe, perché non riesci a organizzare il lavoro come dovresti, perché spesso i dirigenti, perché no, poi non è quasi mai colpa di chi lavora là dentro, ma è colpa di chi dirige dall'altro, dei 545.000 euro che non sanno l'unica cosa che riescono a pensare è un trucco per riuscire a rientrare dentro e campavanti e via sto stipendio, per che poi mi devi dire con 45.000 euro al mese, che è il doppio dello stipendio annuale del grosso delle persone che lavorano in Italia, perché questa differenza tra le persone, quale senso può avere? Finché un'azienda privata, no, Marchionne guadagna cifre simili, no? 400 volte un operaio, un amministratore delegato della Fiat, ditta privata. Ma questi sono pubblici? Questo è pubblico. Questo è pagato con le tasse di chi paga le tasse. Poi... sono pubblici, fanno danni, passano, no? C'era il dirigente dell'Italia che poi passa alle ferrovie, passa all'ACEA, che poi passa all'Enel, che poi passa a qualcos'altro. Sempre stessi. Perché nel pubblico possiamo pagare queste, dobbiamo pagare queste cifre quando 45.000 euro al mese, ci pagare lo stipendio a non so quante decine di precari che stanno all'assistenza dei ragazzi disabili che invece hanno tagliato tutti i fondi, stanno a tagliare i fondi delle biblioteche, cioè stanno a chiudere, devono ridurre l'orario, il signor Bartirone, il signor Barto eccetera prendono anche per questo, perché questi sono sprechi insensati. Poi dicono di non fare conti in tasca alla gente, insomma. Allora sì, che un dirigente, per quanto sia bravo, no? Gli puoi dare anche in un regime capitalistico, se l'operaio guadagnerà 1.000 euro, e tu puoi dare questa premiazione, oppure che gliene darei 10.000, è una, certo, per me è una follia, però certo, rispetto agli, perché con, cioè, persone che comunque impiegato della FAO, questi prendono stipendi clamorosi e benefit vari, per comunque specialisti che hanno studiato, multilingue, gente che prende, stanno bene, 6.000 euro, cioè belli e stipendi. Dovrebbero salvare la fame nel mondo. Sì, no, però che gente poi magari deve andare in missione fuori dal... Sì, vanno ricompensate certe cose. Mi sta pure bene che tu compensi il tuo stare fuori da... in questi modi, ma però se stiamo su 45.000 euro mensili non c'è veramente nessuno in più, tutti gli altri soldi che smuovi, perché se te sei amministratore delegato non prendi tre solo mensilità, te puoi comprare un appartamento con gli risparmi di una vita, vedi? Che ci vuole? Va bene, se allora visto che noi siamo solo dei poveri operai, mandiamo questa canzone e poi continuiamo con Pregari. Non siamo operai, siamo precari, però no, operai, siamo precari, vicini tutto. Agli operai, vi mandiamo questa canzone e ci sentiamo fra poco. Dalla scocca e il tuo lavoro di catena che curva poco a poco la tua schiena, neanche un minuto per ogni auto, la catena è assai veloce e il lavoro ti ha condotto a odiare la 128. Ma alla fine settimana il riposo ci fa bene, noi andremo senza pensieri dagli amici a Moncalieri. La 1100, hai lasciato la catena, un bicchiere di vino buono ti ridà tutto il calore, trovi la tua donna, fai l'amore, sei già pronto per partire, spegni tutte le luci di casa, metti il tuo abito migliore pulito, lascia il gatto la carne per 3 giorni e insieme a una Torino abbandonata trovi la tua macchina bruciata. La 1100, la 1100, la 1100. Eccoci qui, sempre a Cronaca in Borgata. Ricordiamo, questa è Cronaca in Borgata. Potete ascoltare la radio in streaming dal sito radiopirata38.noblogs.org. E siamo qui con il nostro amico Eugenio. Ciao. Che appunto, dopo il lungo excursus, ormai più lungo di un'ora, Sulle vicende, le novità dei cantieri nel quartiere, le speculazioni, eccetera, eccetera, ci allarghiamo un attimo per quanto riguarda il nostro territorio. E, sì, andiamo un attimo fuori, siamo qui vicino e andiamo a parlare un po' di quello che sta succedendo all'Eur. Penso lo sappiamo tutti, insomma, sono diversi mesi che si parla di questa Formula 1 che nella zona dell'Eur. E sempre nel discorso che stavamo facendo prima del riassetto della centralità urbanistica dell'Euro, un 12° municipio, e niente, ci sono un po' di novità e ve le comunichiamo, e però vi promettiamo poi un aggiornamento magari più specifico e più approfondito nella prossima puntata, visto che ce ne sarebbero tantissime di cose da dire e siamo un po' fuori tempo. Allora, niente, che un paio di settimane fa, il 4 novembre, c'è stato innanzitutto un tavolo interistituzionale al quale hanno partecipato, insomma, un po' tutte le parti politiche prese, insomma, che stanno in mezzo a questa cosa, dal presidente del municipio ai vari assessori del comune, De Priamo, Corsini, rispettivamente ambiente e urbanistica, c'era anche la Polverini, c'era il sindaco Alemanno, c'era l'assessore, insomma, tutti insieme, tra cui anche quello che promuove il progetto, Flammini. Non è che gli volevamo fare pubblicità, però insomma che volevamo, cioè, per ribadire il fatto che questo, ovviamente, quando c'è stata la spartizione della torta, si affacciano tutti. Niente, era un tavolo interistituzionale in cui i politici appoggiavano il progetto, che dopo qualche giorno, il 9 novembre, si sarebbe andato a presentare in sede di conferenza dei servizi, che è lo strumento attraverso il quale, insomma, si vede quello che va bene e quello che non va bene di un progetto. Questo detto molto, insomma, in generale, perché poi ci stanno una serie di vincoli anche molto in contraddizione tra di loro. E la notizia, niente, è che c'è stato un primo blocco di quel progetto di costruire questi due mega palazzoni all'altezza del Fontane Montagnola, di cui accennava prima il nostro amico Luca Filippo. E non è una buona notizia questa, nel senso, perché non è che di fatto blocca il progetto, e infatti verranno completamente spostati da un'altra parte. Probabilmente si andrà a identificare un altro sito dove riversare queste cubature di cemento, e staremo, insomma, a vedere le prossime evoluzioni. Sono usciti, insomma, un po' di dossier, tra cui uno di Italia Nostra, che vorremmo leggere, insomma, per vedere quali sono, insomma, le cose che vengono criticate. E in tutto, vi accenniamo al momento una cosa: sono 230.000 cube di cemento che si andrebbero a riversare in quell'area, di 250.000 sull'area dell'ex velodromo, che è stato abbattuto 2 anni fa, e le altre 80.000, insomma, sempre nel resto della parte dell'Eur, Tre Fontane, Laurentina, insomma, un po' più verso Montagnola. Una cosa sola ve la accenniamo al volo, perché un ruolo importante rispetto a questo progetto, lo sappiamo, lo sta giocando Alemanno. È stato lui il primo, insomma, a sponsorizzare la Formula 1, che subito Ecclestone poi ha appoggiato. Si parla addirittura di un contratto per i prossimi 10 anni, è che però sempre si guardate un po', si ricollegano un po' tutte le cose rispetto a personaggi dirigenti delle aziende municipalizzate e ruolo all'interno del progetto. Spunta Eur SPA, Eur SPA, ricordiamo chi è l'amministratore delegato di Eur SPA. È un certo oggi Mancini, che tra le altre cose sta nella top 10 anche lui. Quanto prende al mese? Oggi facciamo i conti in tasca alla gente, quindi... Sì, questo sta un po' sotto rispetto a quello di prima, rispetto a Panzironi. Dell'Ama, ricordiamo, 45.000 euro al mese. È un po' più poverello, sta a 198.750 euro all'anno, tutti presi come amministratore delegato di Eur SPA. E niente, è uno di quelli che ha sostenuto in prima persona il progetto di Alemanno. Siamo andati un po' a vedere, insomma, chi fosse, guarda, questo personaggio. Vediamo quanto prende al mese solo 16.000 euro e mezzo, quindi, insomma. Io non vedo quanti ne prendo al mese, però poverello, perché sennò mi fate i doppi conti in tasca a me. Però niente, stavo dicendo, insomma, siamo andati a vedere chi cavolo era questo Mancini. E niente, sempre il Corriere della Sera, perciò questo giornale, insomma, rivoluzionario, comunista, anarchico, insomma, cioè di questi, proprio, che stando dalla parte dei poracci, dicendo da dire che lui da giovane era uno di quelli che apparteneva al fronte della gioventù, quando Gianni Alemanno era un leader, insomma, e poi ha fatto la sua scalata all'interno di questa impresa Euro SPA, sotto, diciamo, l'ala protettrice del presidente imprenditore Pierluigi Borghini. Come a dire, gira che ti rigira, sono sempre loro che ci mangiano, insomma, la politica, privati, eccole lì che si spartiscono la torta. Amministratori delegati, eccetera, eccetera. E niente, questo, al momento vi diciamo questo, per la prossima puntata ci impegniamo a fornirvi informazioni più specifiche, magari qualche altra chicca, insomma, di queste qua che possono essere utili per, diciamo, mi verrebbe da dire, o posso dire, vale, sputtanare, beh, se sì, può dire. Certo. Stavo scherzando, ovviamente, per, insomma, smascherare questi loschi individui. Ok, ancora un altro pochino e abbiamo quasi finito, eh? Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione. Fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da un milione. Fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano regolatore. Fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e puoi morire in odore di santità. Fabbricando case, sermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando case, assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore. Fabbricando case, col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore. Ma dopo vai dal confessore e ti fai esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà. Puoi morire in odore di santità. Fabbricando case, e allora siamo sempre qua con il nostro amico Eugenio che ci parlerà appunto di quella che è un'iniziativa non proprio nel dodicesimo municipio, ma lo attraverserà il dodicesimo municipio, partendo appunto dall'undicesimo. Questa iniziativa si terrà domani con appuntamento alle 14.30 al Parco Schuster in zona San Paolo, e si chiama Anti-Speculation Tour. Eugenio, ci vuoi parlare del progetto, dell'iniziativa? Sì, niente, vabbè, perché ovviamente noi oltre a seguirci, le vicende delle speculazioni, cerchiamo anche di attivarci sui vari territori. È nata questa iniziativa dall'idea di ciclisti, attivisti, singoli individui, insomma, sparsi tra l'undicesimo e il dodicesimo municipio di Roma, e insomma fare una giornata in cui i luoghi oggetto di speculazione fossero attraversati, e diciamo chi porta avanti poi le proprie specifiche battaglie potesse insomma conoscere anche le altre, perché poi sappiamo che la visione insomma complessiva che porta le speculazioni su questa città è unica, e dovrebbe, cioè, speriamo insomma che sia unica anche la resistenza a questo modello di città. Abbiamo deciso insomma quindi di proporre questa maniera diversa insomma di attraversare questi luoghi, facendoli in bicicletta, insomma, per ricollegare poi un altro tema che è quello della mobilità, insomma, perciò sottolineando il fatto che a fianco delle speculazioni, insomma, le nuove cubature di cemento che si insediano nella città, si affianca il problema di come poi uno attraversa, insomma, perciò più case arrivano e nuovi abitanti che si insediano in certe parti, nuove automobili, insomma, non c'è un piano di mobilità che lo sostiene. E come stavi dicendo te, si parte da San Paolo, ci saranno una serie di tappe, si passerà per alcune occupazioni abitative come il Porto Fluviale, che recentemente è stato solidarizziamo con questa occupazione, perché c'è un piano all'interno del comune di svendita delle caserme da parte del comune insomma ai privati, e si passerà poi per altre speculazioni come sono quelle delle piscine pubbliche dietro l'Ansa del Tevere, si passerà per via Vincherli, dove è stata portata a termine con una vittoria fortunatamente la battaglia degli inquilini che volevano essere sfrattati. Si passerà anche per Garbatella, dove ci sono alcuni progetti alternativi come un orto urbano, abitare sostenibile, e si proseguirà verso Casal de Melodie, dove c'è un'altra occupazione abitativa, e si ripasserà per Blotta Perfetta, dove lì invece è in piedi un progetto di speculazione edilizia che prevede 400.000 metri cubi di cemento destinati a edilizia residenziale privata e esercizi commerciali, e si continuerà verso la Laurentina, attraversando il Laurentino 38, di cui abbiamo parlato approfonditamente fino adesso, e si concluderà all'Euro, dove insomma, anche questo l'abbiamo accennato adesso, c'è questo progetto della Formula 1 con queste altre 230.000 metrature cube di cemento che si andranno a riversare sul territorio. Sarà una modalità determinata, ma anche molto insomma comunicativa, gioiosa, e siete tutti e tutte invitate a partecipare, insomma, ecco, sperando che il tempo regga, insomma. Vorrei leggere quella che è la parte finale del manifesto di questa iniziativa, che dice: come attivisti, ciclisti, singoli individui che desiderano un altro modo di vivere gli spazi, con lo spirito di chi non si rassegna, si attiva e continua a sognare e costruire un altro mondo possibile, proponiamo una biciclettata collettiva. L'idea è di percorrere gli stessi territori che viviamo quotidianamente, attraversare parte del quadrante sud di Roma, quella tra l'undicesimo e il dodicesimo municipio, secondo la geografia istituzionale, e segnare i luoghi oggetto di speculazioni, ma dove si sviluppano anche forme di resistenza, una modalità appunto gioiosa e determinata, comunicativa e diretta, di riprendersi le strade e manifestare il dissenso contro le forme di nocività prodotte all'interno della città. Ripetiamo l'appuntamento è previsto appunto per domani, domenica 21 novembre, alle ore 14.30 al Prato di Parco Schuster, nella vicinanza della Basilica di San Paolo. Sì. Questa iniziativa si terrà con la pioggia? Non si terrà con la pioggia? Beh, in caso di diluvio probabilmente verrà rimandata, insomma, però speriamo che il meteo ogni tanto si sbagli, in ogni caso qualcuno sarà lì ad aspettare se tante volte qualche ciclista dei più avventurosi si presenti, e vediamo, insomma, cioè, fino adesso sappiamo che l'intenzione da parte di molti è di partecipare. Certo, è un po' difficile in bicicletta perché pure volevamo fare qualcosa durante il percorso, vedremo insomma come andrà a finire, poi magari nella prossima puntata ci aggiorneremo e faremo un resoconto nel caso in cui si sia fatta, oppure rimanderemo un altro appuntamento nel caso in cui fosse una giornata piovosa quella di domani. Santero con muela, que dicen que pueden curar la abuela. Y'all like Scarface, I'm more like Sosa. Cypress Hill, pretty flaco, this our culture. From Cali to the crib, me in Miami. Thank God I'm doing music, if not I'd be tying families. I'm not an oh no, I'm about my cash flow. Let me take this shit and send this letter off the Castro. Dale. Ay, Cali, tierra de mi gente hermosa. E allora, appunto, nella speranza che questo anti-speculation tour si possa fare, pioggia permettendo, noi ripetiamo l'appuntamento domani, domenica 21 novembre. Appuntamento alle 14.30 al Parco Schuster, zona San Paolo, sempre pioggia permettendo. E comunque invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Pirata 38 e di Cronaca Imborgata a intervenire su quello che è il blog su Facebook oppure su il sito di Infoterritorio, che ve lo dico subito, è www.tmcrew.org. dal sito insomma del Laurentino di L38 Squat potete accedere facilmente a Infoterritorio. E non so se il nostro amico Eugenio voleva aggiornarci su delle ultime cose. Ma penso abbiamo detto tutto, speriamo di vederci presto, di sentirci presto. Il prossimo aggiornamento sarà sicuramente sulla questione della Formula 1, ma tanto qui in questa città di cose di cui parlare ce ne sono sempre, di progetti che escono fuori, perciò sicuramente qualcosa da dire ci starà, insomma. Insomma, noi ci ritroviamo sempre a parlare di questi che prendono migliaia di euro al mese e poi noi non abbiamo tempo neanche di, di fare salotto su queste cose in quanto siamo troppo impegnati a lavorare. Quindi insomma, con un piccolo aiuto da parte di tutti e tutte quante, attraverso commenti, il postare notizie, quello che vorremmo, che ci aspichiamo di fare, è quello di creare un movimento di persone che, nonostante le loro difficoltà già a portare avanti la loro vita normale, tra virgolette, ovvero casa-lavoro, possano concentrarsi e cercare di individuare questi, come dire, questi progetti, questi in fase. Bastardi che se ne approfittano, cioè, di noi povera gente, sì, che paghiamo le tasse. Questi fanno i progetti, se vengono i soldi in tasca, poi delle nocività della salute, insomma, dell'ambiente che viviamo, cioè, ci rimettono sempre gli abitanti, insomma, perciò cercare di sviluppare trame di resistenza sui territori è forse l'unica reale opportunità che abbiamo per opporsi a questi progetti. È molto difficile, se non addirittura più irrealistico, pensare che siano le istituzioni stesse ad impedire o a bloccare queste cose. Questo comunque, cioè, di fatto ce lo riconsegna la storia. E l'unione fa la forza, e quindi dai, forte. Ricordiamo a tutti e tutti quanti che per qualsiasi comunicazione potete scrivere a cronacaimborgata@gmail.com o sul contatto Facebook di Laurentino38 Cronaca Imborgata, oppure sul blog di Infoterritorio, raggiungibile dal sito di L38 Squat o TM Crew. Con questo è tutto. Potete anche mandare un'email naturalmente a radiopirata38@inventati.org oppure aggiungere il contatto Skype di Radio Pirata 38. La radio è ascoltabile, come tutti quanti sapete, dal sito radiopirata38.noblogs.org. E in questa giornata uggiosa, in questo pomeriggio uggioso, salutiamo il nostro amico Eugenio. Ciao, ciao Eugenio. Ciao. E vi lasciamo con l'ultima canzone e ci riaggiorniamo alla prossima settimana, come al solito, dalle 3 alle 5 con Cronaca Imborgata. Arrivederci, non abbiamo più niente da dirci. Scaring the nation with